avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Mi capitò proprio nella serata di ieri, in un insospettabile meeting in cui erano presenti alcune signore in età indefinibile, ma tutte dotate di figliole sul fior dell'adolescenza, di cogliere quello che è il profondo dramma delle mamme di oggi. In realtà fanno di tutto per arrestare l'inarrestabile, quindi per mantenersi una sorta di limbo in cui il segno e l'erosione del tempo sembrano lambire le loro carni. Però allo stesso tempo sono preoccupate perché i giovani virgulti, a cui danno parte precipua della loro attenzione e della loro esistenza, crescono con qualche problema. Non vorrei aver già dato una risposta, ma questa mattina vorrei parlare dei problemi degli adolescenti, che non sono i semplici problemi legati, non so, al rendimento scolastico, ai nervosismi, alle turbe della crescenza, no, è qualcosino di lievemente più pesante. 5 euro in cambio di giochi erotici nei bagni della scuola con uno o più compagni di classe. Tutto per raccogliere i soldi per comprare l'iPod o più semplicemente per la ricarica del cellulare. E poi ancora fotografie senza vestiti o video pornografici pubblicati su internet in una sorta di book online dove tutti, ragazzi e ragazze, possono scegliere con chi avere il prossimo rapporto. Alcuni ragazzi ci hanno segnalato questo, io lo chiamo book elettronico, book tecnologico, nel quale troviamo che cosa? Il nome della ragazza, che cosa è disposta a fare e in cambio di cosa. Ragazze dai 15 ai 17 anni, appuntamenti via SMS, incontri veloci nei bagni della scuola, sesso in cambio di regali. Abbiamo questo passaggio in oggetti, oggetti estremamente futili o di poco anche valore. Io sono stato sempre uno strenuo avversario di chi poneva le responsabilità dei comportamenti degli esseri umani alla loro frequentazione di macchine, di protesi emozionali, di strumenti di relazione. Però se ne parla sempre in maniera più insistente, in maniera più particolareggiata, portando poi prove a quelli che semplicemente potevano essere scambiati per dei fantasmi, per dei timori, per delle preoccupazioni. Sembra ormai accertato che una generazione di adolescenti, di quasi bambine o di quasi donne, secondo il punto di vista di ragazze in età scolare, che naturalmente per una sorta di evoluzione biologica dovute alle nutrizioni più intense, ai sistemi di vita più eccezionalmente dotati di capacità vitaminiche, vuoi del vite non piene poi di così pressanti preoccupazioni per la loro sopravvivenza, fa sì che abbiano avuto un precocissimo sviluppo, quindi probabilmente in terza media già sembrano delle 25enni. I loro comportamenti, invece di essere mirati come vorrebbe la tradizione, come vorrebbe il desiderio, l'aneto dei loro genitori verso una felice e equa interpretazione della loro femminilità, in realtà sembra che facciano queste estremizzazioni della loro capacità di essere oggetti appetibili di desiderio da parte dei loro compagni. Quindi nasce tutta questo filone fra il reale e fra il terrificato dei comportamenti adolescenti. Proprio vero che le ragazzine oggi per procurarsi delle ricariche al loro cellulare sono pronte a mostrare foto di se stesse discinte? È proprio vero che oggi ci sia una promiscuità così spiccata che queste nipotine della rivoluzione sessuale fanno impallidire anche i più umidicci sogni delle loro mamme, delle loro zie, delle loro nonne? 800 24 0024, per quello che ne sapete, per quello che ne avete sentito dire, per quello di cui ne avete esperienza concreta, fatemelo sapere. Quanti anni hai? 17. Sì. E quindi fai la classe terza liceo? Sì. Come è partito il tutto? Per caso, cioè non è che l'ho cercato, ho pensato da un giorno all'altro faccio queste cose. Cioè un paio d'anni fa, se per scherzo, tra amici, così. Ah sì, no, vediamoci. Quasi più una scommessa, no? In cambio ti do questo, ma più per ridere, comunque fa sempre comodo avere in cambio qualcosa quando penso sparsa la voce. Ora nei 17 ne avevi 15. Sì. E quindi è partito con le ricariche, cioè ci sono anche altre cose, ricariche. Non so, perché. Ricariche, poi magari è capitato, non so, la cintura di Gucci per dirti una marca, qualcosa, magari anche di usato per dire, non so, Sì. credo una bella piuttosto che qualcosa. 80024 0024, questa mattina parliamo della devianza adolescenziale, partendo naturalmente da un taglio molto preciso, dall'estrema libertà di espressione corporea delle adolescenti, delle ex bambine, ma ex bambine da poche settimane, quindi ragazzine molto piccole. Quella che avete sentito è una ragazzina intervistata in un servizio delle Iene che parla di lei quando aveva 15 anni, parlava delle estremizzazioni della sua curiosità, della sua ricerca di esperienze fisiche. Ma quello che fa riflettere, non tanto mirate a una sorta di desiderio di scoperto, di fare esperienze, ma con un freddo cinismo, hanno capito perfettamente quale sia l'equazione vincente. Avere beni di consumo che danno felicità, che danno status, che danno possibilità di vivere relazionalmente con soddisfazione, in cambio di permesso di usufruire fisicamente o anche semplicemente guardando della propria fisicità. Quindi il vecchio, antico e millenario rapporto sesso in cambio di beni di acquisto, di potere, di denaro o di felicità sembra così facilmente e così tenacemente ormai radicato anche nella coscienza delle ragazze occidentali avanzate, quindi non soltanto per schiavitù, per un losco giro di sfruttamento, per una civilizzazione ancora arretrata nel rispetto dell'infanzia, abbiamo visioni terzomondiste di bambine sfruttate, di bambine costrette a essere vittime di turismo sessuale, ma le nostre placide, ben pasciute, benissimo educate, ipermasterizzate figliolette, esattamente di loro spontanea volontà e più o meno per lo stesso scopo fanno esattamente le stesse cose. Marida Lombardo Piola, buongiorno. Buongiorno. Allora, Marida Lombardo Piola è una giornalista, inviato speciale del Messaggero, si è occupata per tanto tempo di politica, di mafia, giustizia e società, ma è nota da qualche anno, esattamente dal 2007, per occuparsi appunto di ragazzine. Il suo primo libro, lo ricorderete, ha fatto molto scalpore, ha fatto molto parlare di sé. Ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamo Principessa, storia di bulli, Lolite e altri bimbi. Un libro del 2007, edito da Bompiani, ma uscirà, e mi sembra che sia nelle librerie domani mattina, quindi è fresco di stampa il suo nuovo libro, Facciamolo domani a scuola col K, Storie di quasi bimbi, edizione sempre Bompiani. Allora, Marida, vediamo di capire quale inenarrabile e inconfessabile universo si è andata a scalfire questa volta, perché da domani immagino che se ne parlerà moltissimo. Ma guarda, la scoperta fatta nel 2007 era che queste prestazioni sessuali a pagamento che riguardano, permettimi di precisarlo questo perché è importante, è un problema che riguarda tanto i maschi, tanto le femmine quanto i maschi, perché in una compravendita No, hai i fatto bene a soggetti dirlo sono perché due. non mi era ben chiaro, essendo tutti i titoli dei libri e l'argomento di cui si è parlato, i ragazzini, Puntano sulle bambine. non c'è discriminazione. Io ho voluto che il sottotitolo fosse Storie di quasi bimbi e non di quasi bimbe. Perché a considerare il corpo uno strumento di scambio, di baratto, il sesso, una fusione a freddo, una prestazione del corpo che può procurare dei vantaggi, sono tanto i maschi quanto le femmine. Ecco, ti dicevo, nel 2007 la scoperta era che questi scambi a pagamento in età precocissima, allora parlavo appunto di 12, di 13 anni, avvenivano soprattutto nelle discoteche pomeridiane per quasi bimbi. La scoperta di questo libro è che non solo questo fenomeno è dilagato, è diventato sempre più ordinario, è praticato solo da alcuni, ma tutti gli altri lo considerano normale, facente parte dello status quo, cioè nessuno è in grado più di esercitare un giudizio di valore su quello che si fa. Ma che avviene all'interno delle scuole? Oltre Capita che ogni nelle tanto discoteche, oltre. di osservare questa sorta di spettacolo collettivo ripreso con i videotelefonini nelle scuole. Ogni tanto capita, poi tutti ne parlano, in cui alcuni ragazzi o ragazze sono impegnati quasi fosse un gioco collettivo. E credimi, ne parlo cercando di astenermi da ogni giudizio morale, semplicemente lo racconto come si racconta una cronaca. È abbastanza noto che nei momenti liberi, in classi di ginnasio ma anche di scuola media, l'uso personalizzato di una telecamera che ormai ha ogni ragazzino permetta delle fughe di fantasia che non ci saremmo mai sognati, ma figurati, ma nemmeno sognati, nemmeno sappiamo dell'esistenza di questa possibilità, in cui uno, due, tre, quattro persone si danno da fare e gli altri riprendono con i telefonini. Quindi è totalmente deprivato di ogni accezione di morbosità, di nascondimento, di cose che si fanno ma non si dicono. È diventato un normale esercizio. È questo il senso. È diventata una forma di esibizionismo estremo, è anche una misura di valore, cioè chi riesce ad essere più trasgressivo ha più carisma, ha più popolarità, ecco, il loro mito, l'iperbole di tutti i loro sogni è la popolarità, oltre al successo, i soldi, eccetera. Ma secondo te, Marina, quanto conta l'aria che respirano in famiglia? Perché si fa presto a dare colpa ai telefonini, alla società, alle televisioni di Berlusconi, già premetto tutto quello che uno potrebbe dire, ma quanto contano poi le mamme e l'inesistenza di papà in questa cosa qua? Guarda, sono fondamentali. Io in questo libro ho un'intonazione, come negli altri, assolutamente di tenerezza nei confronti di questi bambini, perché sono, dico bambini perché certi fenomeni cominciano adesso all'età delle scuole elementari, mi fa inorridire dirlo, a loro è contato, ma è così. Sono innocenti. Cioè alle elementari già ci sono bambini che hanno tra di loro l'idea di sì, andare, sì, cioè sono per noi era giocare al dottore, per loro già è qualcosa che riguarda il sesso. Sì. Ci sono bambine che hanno già metabolizzato il concetto che il talento principale di una femmina sta nella sua capacità di seduzione e che si spingono anche più in là, che scambiano filmati o messaggini osceni sui cellulari, che si iscrivono a queste chat dove possono vendere la loro immagine, che si scattano da sole nel bagno, anche andando in una ricarica telefonica. Diciamo che questo comincia già negli ultimi anni delle scuole elementari come atteggiamento mentale. Sono innocenti, ecco, questo lo voglio dire con forza, perché sono il prodotto di un cortocircuito tra, da un lato, messaggi molto precisi che hanno ricevuto sin da piccoli, cioè il corpo della donna è un oggetto, è uno strumento di piacere e per la donna può diventare uno strumento di vantaggi, anche, voglio dire, capita ai vertici delle istituzioni. Sì, ma è una storia vecchia come il mondo questa. E dall'altra parte ci sono, in questo momento però questo messaggio viene legittimato anche, come posso dire, dalla cronaca, dall'attualità, cioè loro possono. Sì, ma penso un bambino elementare prima ancora di vederlo legittimato dall'attualità lo vedrà legittimato dalla mamma quando esce il pomeriggio o dai discorsi non che solo, sente in famiglia. Non dalla mamma che non esercita o dal papà che non sono capaci di esercitare l'indignazione. Ma fermiamoci solo un secondo, Marina, scusa un secondo, vuol dare voce intanto ai primi due ascoltatori, poi ritorniamo su questo tema. Avendoci tu scritto il libro potrai darci comunque delle informazioni più di prima mano. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo intervenire perché sono insegnante e frequento ragazzi, adolescenti e tutto quanto. Io penso che il loro atteggiamento sia fondamentalmente il riflesso di questa società, senza mettere la colpa sulle televisioni di Berlusconi eccetera eccetera. Loro fanno quello che vedono che facciamo noi. Effettivamente, se a me è capitato di andare al supermercato e sentire che al supermercato c'era la radio di fondo e alle 10 del mattino uno parlava della difficoltà di erezione, e chiaramente se loro vedono, accendono la TV, vedono nei mezzi questa libertà, loro fanno quello che facciamo noi. I ragazzi, i bambini imitano gli adulti, per cui di tutto questo, secondo me, i colpevoli siamo noi. Colpevoli, diciamo che c'è stata una deriva che per alcuni sensi trovo anche positiva, di liberalizzazione dei propri istinti, la possibilità di poter parlare e dire senza sentirsi dei colpevoli, siamo d'accordo. Ma da qui a il normale lecito esercizio da parte degli adulti della loro sessualità, al fatto che a nessuno venga in mente che occorre una, ma non lo dice assolutamente un moralista, una gradualità di accesso a questi fantastici e inenarrabili mondi, che un bambino deve fare delle tappe, minime, se vuole, ma delle tappe. Mi sembra abbastanza singolare che a 12 anni, 13 anni già si pongano questo tipo di problema in maniera così compulsiva. Tutti abbiamo avuto le nostre curiosità, ma lentamente le curiosità poi diventavano prassi, ma era una sfumata piuttosto lunga, ci volevano diversi anni perché uno cominciasse a passare dall'immaginazione all'esercizio simbolico, all'autoesercizio, all'esercizio concreto. Qua mi sembra che facciano tutto in un solo passaggio. No, perché effettivamente, siccome l'accesso a questi mezzi di comunicazione è immediato, cioè come la violenza in altri casi, cioè questi giochi, videogiochi che si vendono, ai quali loro hanno accesso. Ma ritorno, scusi, sta ritornando al solito luogo comune: colpa ai videogiochi se la gente assassina. No. Io dico anche, perché frequento questi ragazzi, che ci sono ragazzi normalissimi, ragazzi seri, che queste cose non le fanno, perché tra l'altro non entriamo in questo applicare questo modello di eccessi a tutti quanti, non è così. Cioè ci saranno quelli che si scambiano dei rapporti in bagno, ma non sono tutti così. Ci sono anche dei ragazzi che hanno degli atteggiamenti consoni alla loro età. Però io insisto in questo dare la colpa a questo accesso libero a certi comportamenti di cui siamo assolutamente noi responsabili. Io non dico solo che sia il fatto che loro a 12 anni sembrano 25, come giustamente lei ha detto, non è solo quello, è questo modello eccessivo che noi stiamo dando, di spendere, di avere delle cose, e siccome il mezzo più semplice, più alla loro portata, è questo scambio sessuale o scambio di prestazioni, loro la prendono con una grandissima leggerezza, appunto, è questo il problema. Però non dimentichiamo che siamo noi adulti, lei, io, tutti quanti, a dare degli esempi magari sbagliati. Ho capito. Superficiali, sì, e sbagliati. Gli esempi, siamo tutti perfettibili, d'accordo, ma mi sembra un po' esagerata il riflesso rispetto a quelli che possono essere i nostri cattivi esempi, onestamente. Stiamo Federico. Federico. Buongiorno, senta, anch'io lavoro con i bambini, non sono un insegnante, ma lavoro per una società di rugby, vado nelle scuole e anche come esperto di astronomia per l'osservatorio qua di Vicenza. E ecco, io sono in una piccola provincia, insomma, probabilmente qua io non ho mai avuto neanche il minimo sentore andando in giro per le scuole, anche con dei rapporti abbastanza prolungati con gli istituti, non ho mai avuto il minimo sentore di una situazione come quella che viene dipinta, ma appunto probabilmente perché siamo in piccoli centri e tutto quanto. E secondo me c'è il discorso della globalizzazione che sostanzialmente internet è tutto pronto, io posso trovare tutto quello che voglio, e appunto un adulto sa come filtrare certi contenuti, capisce, ma un bambino che magari si fa una ricerca per una tesina a scuola e si trova la pornografia. Sì, guardi, ecco. Mi scusi se fermo, perché sennò andiamo sempre a ripestare i piedi nel sottoluogo comune. Sono discorsi che almeno a questa radio abbiamo fatto fanta volte. Il bambino fa la ricerca, la pornografia non la trova per caso. Se il bambino fa la ricerca con un computer, non può farla da solo, deve esserci un adulto vicino. C'è sempre uno scaricabarile di responsabilità. Io qua non voglio cercare responsabili in questo momento, che non è il mio mestiere, voglio circoscrivere e capire l'entità del fenomeno. Marida Lombardo Piola, alla luce di queste due telefonate. Dunque, da una ricerca di Telefono Azzurro Eurispes, il rapporto sull'adolescenza di quest'anno, che è citato nel libro, risulta che un bambino su tre, fin dall'età di 7-8 anni, va su internet da solo alla ricerca, cioè lo ammette nel sondaggio, come lo dicevi anche tu, di immagini di sesso o di violenza, e questa navigazione la fa da solo. Però tu hai ragione nel dire che non possiamo cercare delle... Accade, ma non è detto che debba essere questa la regola. Cioè i genitori sanno benissimo che non si lascia un bambino accanto a una rete. Grande solitudine di questi bambini. Cioè il dato di fatto che loro si sono trasferiti in massa in questa dimensione virtuale, vita, dove è ovvio che tu puoi fare delle esperienze che ti spingono ad abbassare i tuoi freni inibitori, a perdere la percezione la differenza che c'è tra un'esperienza reale e un'esperienza sessuale. Sì, soprattutto a diciamo i primi a fare questa esperienza sono i papà e le mamme. Comunque ha notevolmente mutato anche le relazioni tra adulti, il social networking, se giri negli uffici, negli enti pubblici, nelle redazioni dei giornali, è più facile vedere una pagina aperta su Facebook o su un social network che su una pagina di lavoro, e le palpitazioni, e le peregrinazioni sentimentali, e le supposizioni e le ipotesi paramatrimoniali passano tutte attraverso la rete. Ma questo ha a che fare con l'esito ultimo, che sono i figli. 800 24 0024. Melog 2.0. Tutto è cominciato tra i banchi di scuola dell'ultimo anno delle medie. Una tredicenne si offre nuda via SMS in cambio di qualche regalo e di una ricarica telefonica. È l'estate scorsa, ma nel giro di qualche mese gli MMS si moltiplicano e a questi si aggiungono anche video hard che durano qualche minuto. Ci sono prestazioni di micro prostituzione a pagamento, poi stiamo parlando di cifre anche molto modeste, quindi per 4, veramente per 4, 5, 6, 10 euro una ragazzina si presta a fare queste cose. Sequestrati decine di telefonini, chiavette USB e hard disk di computer con foto e brevi filmati porno della ragazzina. 800 24 0024, perfettamente consapevoli di gettare inquietudine in mamma e papà questa mattina. È chiaro, molti mi scrivono su Facebook, ma questa è un'eccezione, non è la norma, i nostri figli non sono così, me l'auguro, sono felice per voi, sarà un'eccezione, non sarà come ha detto il signore di Vicenza, che nell'entroterra vicentino succede di tutto, se andate la sera lungo le strade e trovate più trans lì che intorno al fungo dell'euro, ma però normalmente, chiaro che nelle scuole non succede questo, succede sempre agli altri, però visto che se ne scrivono libri, enti importanti titolati fanno serie e circostanziate ricerche, il fenomeno è abbastanza sotto gli occhi di tutti, almeno vediamolo. Riguarda gli altri, non riguarda noi, ma prendiamo coscienza di qualcosa che sta accadendo. Omar, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a lei e ai suoi interlocutori. Sì. Io credo che il problema, prima ho detto uno, ma invece sono due anche. Sì. Il primo è quella, la leggerezza con la quale si affronta questo problema. Il secondo è l'appartenenza, nel senso che in Occidente il sesso è diventato una cosa occidentale, nel senso se tu ti fai problemi, se la ragazza crede che l'adulterio è una cosa che non si può fare, non è occidentale, anche per noi stranieri, se non ci adeguiamo... Lei di dove è, Omar? Io sono algerino, se non ci adeguiamo a questo punto significa che non siamo occidentali, non ci siamo integrati. Ci sarà una via di mezzo però. A me l'anno scorso è successo, nel senso che la mia... No, dico, ma ognuno ha le sue convinzioni, su questo io voglio mettere in dubbio. Ci sarà comunque una via di mezzo. Ognuno pensa che... Io penso che ci sia una libera scelta, ognuno può fare quello che vuole, ma... dettare a un ragazzino ancora preadolescente dei minimi principi per cui dici guarda, non è che ti si apre il cielo, arriva un fulmine e ti fulmina, però cerca di capire che forse la tua età è ora che dai un... Ci mancherebbe, sono più di 20 anni che vivo in questa società, ormai sì. Questa società la capisco, e se vivo significa che accetto, ci sono molte cose positive che mi fanno comodo. Sì, ma andiamo al punto, allora, lei ce l'ha raccontato. Il punto, io raccontavo cosa è successo alla mia bambina di 4 anni l'anno scorso, che adesso ha 5 anni, che va all'asilo, è tornata a casa piangendo, poi io la mamma piano piano, cioè, per capire cosa è successo, alla fine ci ha raccontato che un bambino, mentre è andata al bagno, l'ha seguito un bambino un anno più grande di lei, di 5 anni. Quando è entrato dentro, le ha proposto: se mi dai un bacio della bocca, ti do la bambola della Wings a 5 anni. Poi io me la sono presa non per il fatto che mi chiedevo come fa questo bambino a 5 anni a ragionare in questo modo, qualcosa. Allora sono andato all'asilo per ragionare, anche per parlare con loro, per avvisare, anche per dire. L'ha detto alle maestre, l'ha detto questa cosa. Le maestre l'hanno presa a risata e mi dice: ma sono bambini, nel senso, cosa vuoi che facciamo? Allora, ma io non sto dicendo che voi lo dovete picchiare, dovete avvisare la sua famiglia, almeno per la malizia che ha a questa età, è un po' fuori, è un po' prematura per la sua età. Alla fine l'hanno presa, per loro è una cosa come la leggerezza che quell'anno è. In senso che questo è un problema. Lei già vedeva comunque, diciamo, una precocità esagerata, un bambino di 5 anni, ma sai, un bacetto a una bambina a scuola, si chiedeva anche noi quando eravamo piccoli, si sentiva parlare, non so il tipo, l'intensità e la malizia messa in questa cosa, ma è normale, dava per scontato il fatto che la bambina era disposta a una prestazione non di tipo affettivo, ma di tipo fisico in cambio della bambolina. Questo è già un dato. Stefano. Buongiorno, signor Nicoletti. Eccomi. Io sono preoccupato per mia figlia di 5 anni che, come l'ultimo intervento, anche lei ha degli atteggiamenti imparati, si dice, all'asilo, imparati forse dalla televisione, imparati forse anche dai nostri comportamenti di adulti che forse non ce ne accorgiamo, ma sono sempre mirati a una vita che gravita tutta attorno al sesso. Io posso dire una cosa, ma tutta sta vita che avete attorno al sesso, dove la vedete voi? No, farebbe piacere. Nicoletti, guardi la televisione, cioè io dico. Sì, anche ma la televisione è un'altra cosa, sono attori. Abbiamo le letterine, abbiamo le gironzoline, le pironzoline. Sì, ma non è che la televisione è la nostra vita, scusi. No, la televisione non è la nostra vita, ma è molto presente nelle nostre case. Ma poi si esce, basta andare al supermercato. Io non vedo tipo americane le signore con i bigodini, le vedo tutte preparate. Le ragazzine che meglio fuori, ringrazio Dio che di questo scusi, ma non dobbiamo confondere, però scusi, non dobbiamo confondere, secondo me, una lecita possibilità che possono avere degli adulti di mostrarsi piacevoli o mostrarsi anche sessualmente disponibili. Vorrei capire quanto questa libertà degli adulti poi dia liceità di comportamento anche ai bambini, perché l'adulto potrebbe dire: sei bambino, stai al tuo posto, tenere dei ruoli di differenza. Non è che è un'eccessiva parità in famiglia in cui i bambini si sentono già adulti, perché gli adulti a sua volta sono come dei bambini che si sentono a livello dei loro figli. Perché non vorrei riportare una società in cui cade al rigore del comportamento morale esteriore che ha sempre nascosto i peggiori inferni, perché dice: se noi bambini sono troppo emancipati. E questo vorrei cercare di capire. Ritorniamo all'ospite che avevamo agli inizi, che è l'autrice del libro Facciamolo domani a scuola, storie di quasi bimbi, da domani mattina in libreria per la Bompiani, Marida Lombardo Piola. Vedi che però è un po' difficile parlarne con leggerezza e serenità, perché alla fine nell'elenco dei responsabili va la società, la televisione, le donne che hanno un comportamento liberale. Non vorrei che la risposta fosse che il burka risolve il problema delle bambine immignottite precocemente, scusami il termine, ma è questo di cui stiamo parlando. O dei bambini. O dei bambini, certo, chiaro. Guarda, c'è una sinergia di elementi, cioè questi ragazzini sono accerchiati da una serie di proposte, esempi, la televisione, non dobbiamo scomodare Pasolini, io non sono tanto d'accordo con te per dire che poi è il potere della televisione che ha omologato le culture a tutti i livelli sociali, in tutti i ceti, eccetera. Ma c'è una debolezza di tenuta se uno si lascia condizionare troppo la televisione. C'è una debolezza di tenuta e qui vengo al punto. Io credo che ci sia soprattutto un problema di omissioni, ovvero l'incapacità di proporre a questi ragazzi un modello di vita, un'energia, uno stile, un catalogo di passioni e di interessi che non li lasciano galleggiare in un vuoto dove poi è ovvio che questi messaggi hanno una risonanza dirompente e determinano poi alla fine quasi dei riflessi condizionati, degli automatismi collettivi per cui non si percepisce. Comunque il fenomeno è nuovo rispetto a tutte le ansie generazionali attraverso cui siamo passati negli ultimi 20 anni. Questo è nuovo. Prima erano i ragazzi che non seguivano le regole della famiglia, poi che non studiavano, poi che si occupavano di politica, poi che erano bamboccioni. Ci stiamo preparando ad affrontare un fenomeno abbastanza nuovo per la nostra società. È relativamente nuovo, è un fenomeno che va avanti da molti anni in un'area sommersa. Ecco, quello che mi colpiva nel racconto del primo ascoltatore era la risata che ha fatto la maestra nel sentire raccontare questo episodio, perché questo episodio che è accaduto in questa scuola è comunque la spia di un atteggiamento mentale che un formatore dovrebbe recepire come un segnale di allarme. Allora, tutto questo sta accadendo da molti anni e sta dilagando, non come norma di comportamento, però come dato di fatto acquisito, facente parte dello status quo anche da parte di chi non lo pratica. Sta dilagando da anni sotto i nostri occhi, che però non guardano. E quindi c'è come il desiderio di non strappare questo velo della rimozione, perché è un fenomeno che fa paura e soprattutto è un fenomeno che ricorda. Allora è tipico, Maida, se ne comincia a parlare in maniera concreta adesso, non soltanto come un fenomeno di punta al di fuori comunque della norma delle nostre famiglie, forse è questo è più esatto, direi. C'è sempre stato negli ultimi anni, adesso comincia a parlare come qualcosa che riguarda un po' tutti noi, non è soltanto poverini, sai, quelli hanno questi bambini, ma lasciamo, sarà perché la madre. Oggi è qualcosa che con cui dobbiamo cominciare a fare i conti un po' tutti, o mi sbaglio? Dobbiamo fare i conti perché accade veramente in maniera trasversale in ogni ceto sociale, in ogni area geografica, e accade in una specie di dissociazione di vita, no? Per cui questi ragazzi sono sempre più chiusi in questo perimetro della loro vita virtuale, dei loro pensieri, dei loro riti, delle loro abitudini, e si educano da soli, cioè non riconoscono più l'adulto come fonte di un esempio, di una serie di istruzioni. Esattamente quello che abbiamo detto all'inizio, c'è una sorta di livellamento in cui l'adulto è il figlio dei propri figli e il figlio molte volte è la persona di coscienza rispetto alla spensieratezza dei propri genitori. Grazie Maida Lombardo Piola, che ricordo autrice del libro Facciamo domani a scuola, storie di quasi bimbi, edito da Bompiani. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ella vedi bagaccia 800 24 00 24. Mi rendo conto, ripeto, questa mattina aver inquietato molti genitori, ma passata l'inquietudine probabilmente viene il senso di responsabilità per capire cosa sta succedendo nel campo degli adolescenti, che abbiamo visto precocemente sessualizzati, ma ancora più grave non sarebbe tanto questo il problema quanto usano questa loro sessualità, questa scoperta del potere fascinatorio del proprio corpo per banalissimi scambi in merce di consumo come ricariche telefonini, oggetti, giocattoli e via dicendo. Su questo ha fatto un'inchiesta Save the Children un anno fa, usando un campione di ragazzi fra i 12 e i 19 anni, è venuto fuori, emerso, che in realtà non è poi un fenomeno così di nicchia. Ce ne parla velocemente Elisabetta Papuzza, che è psicologa dell'area minori e nuove tecnologie. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, io vi parlo di questa ricerca che ha proprio approfondito il rapporto tra bambini e adolescenti, internet e sessualità, condotta sia un anno fa che negli ultimi mesi, proprio come aggiornamento. Quindi dati. È recentissima, sono dati di adesso. Esatto, in occasione della giornata europea per la sicurezza in internet, e vi racconto anche della mia esperienza quotidiana che fa leva proprio su quello che succede con i ragazzi e negli incontri con genitori ed insegnanti sul tema proprio dell'educazione ai nuovi media. Ecco, vediamo se riesce a darlo in una sintesi, visto che stiamo proprio per chiudere. Sì, la sintesi è che di fatto percentuali sempre più alte e ad età sempre più basse di ragazzi utilizzano internet proprio per esprimere la sessualità attraverso lo scambio di materiali, video, immagini con nudi o comunque a contenuto a sfondo sessuale, e lo fanno, ed è questo diciamo il dato più inquietante, e per motivazioni che vanno diciamo dall'autostima ma anche a così il desiderio appunto di ottenere ricompense materiali. È una gratifica nel loro diciamo ambiente di micro società essere sessualmente attivi e precoci, sì, e disinibiti. Allora, esattamente, però la nostra analisi è proprio questa, cioè che il problema consiste nella scissione tra una dimensione fisica e corporea, che è ovviamente presente e ad età sempre più precoci, come dicevate anche voi, e invece tutta la sfera affettiva, cioè il fatto di appunto mettere in gioco il proprio corpo ad un'età in cui comunque è fisiologico che questo avvenga, senza invece un'educazione agli affetti, è secondo noi il dato più preoccupante. Cioè non è più il ricettore principale dell'affettività, dell'innamoramento, delle cotte, del desiderio di tenerezza e conoscenza. Il corpo è diventato uno strumento, è staccato da tutte quelle altre cose fantastiche che ci fanno ricordare come l'età di passaggio all'adolescenza come un'età piena di sensazioni. Esattamente, ed è in questo secondo noi che la scuola, la famiglia e la società mancano in termini educativi, proprio come traduttori, no, di questo passaggio, come coloro che aiutano poi a vivere la sessualità, che ricordiamolo esiste fin da subito, in tempi e in modi però adeguati all'età. Grazie Elisabetta Papuzza, che ci ha velocemente ma intensamente descritto l'inchiesta di Save the Children. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, e non ve ne fate un grosso cruccio, potete sempre mettere le mani al problema e riprendere la vostra posizione di genitori. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.